Ascolta il Public Zero. Piral. Piral. Ascolti DJ Sun, ti offre la manna. Credi davvero del tuo uomo in posa, ogni cosa succeda, attento rifletti, quelli non sono confetti che ti escono dal naso quando meno te l'aspetti. Siano dei capi e retaggio, qualunque tu sei bene, quantunque mantieni la cosa e sei rigido in posa. Sei convinto piuttosto che sia un tipo tosto, colui che si veste da tipo un tuo rosco. Poi esce di sera e qualcuno lo mena, si rifugia da mamma, si rinchiude in cantina, ma mantiene la cosa e sta rigido in posa. Poi spazza la posa e combatti la cosa. Spazza DJ Sun e combatti la manna. Questo è solo l'inizio. Bella lì. Lungo, tranquillo, il rapper che rappa nel fango sputa soltanto quattro ranci di rime. Motherfucker, sucker, file e stile. Uno, due, tre. Chiedi se sei un pericolo pubblico italiano.